La versione di Oscar. Di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24 in questa giornata di festa, quindi non vi chiedo di telefonare, non vi chiederò, però in questa giornata di festa un tema che ha a che vedere con quella che è una delle attività tipiche degli italiani nella giornata di festa, cioè il trasporto, i parenti, riunirsi, le famiglie, il turismo più o meno vicino, ecco, e poi naturalmente tornare a casa. Perché? Per fare una riflessione su uno dei temi che a me, che difendo il libero mercato, la concorrenza eccetera, piace molto per definizione, e che però spacca e divide, come ovvio, perché le novità sono destinate a creare contrasti. Le novità, quando si parla di settori del mercato, ledono degli interessi precostituiti che rispecchiano come quel mercato si è organizzato per decenni, e che ovviamente di fronte a nuove regole, alla liberalizzazione, insorgono con nuovi players che arrivano e dicono no, quelli non stanno in piedi. E allora di che cosa stiamo parlando, per consentirvi meglio di capire? Della rivoluzione che è in atto nei comportamenti, sia sulla domanda sia sull'offerta, cioè sia sui player del mercato sia su come gli italiani stanno aumentando la loro domanda nel settore dei trasferimenti attraverso le autolinee a lunga percorrenza in Italia, cioè gli autobus per spostarsi in direttrice nord-sud, est-ovest, per andare all'estero, ed è un segmento di mercato che, poiché dall'inizio del 2014 è completamente liberalizzato, guarda, quando viene liberalizzato un mercato che si trae, che esplode, cioè che offre una vastissima ricchezza di nuovi protagonisti che si affacciano per offrire offerte, naturalmente a condizioni di prezzo molto più vantaggiose di prima, e naturalmente dal punto di vista quindi della domanda, molti più milioni di italiani che si trovano a dire beh, ma a questo punto io con tariffe che sono considerevolmente, ma molto considerevolmente più basse di quelle del treno e dell'aereo, e che battono, voglio dire, l'offerta low cost dell'aereo, beh, insomma, ho un po' di tempo in più, ma soprattutto ho meno soldi, e quindi faccio la scelta degli autobus di linea. Allora, per riflettere, naturalmente, ripeto, queste novità hanno portato un sobbollimento in tutto il settore. Perché? Perché si sono presentate a quel punto sul mercato italiano dei gruppi e dei modelli di impresa non italiani, che vengono dall'estero, e quindi da questo punto di vista la tradizionale offerta delle compagnie italiane, a cominciare da quelle Confindustria, l'ANAV, l'associazione che riunisce le imprese di trasporto passeggeri bus, sono molto contrarie a quello che sta avvenendo. Lo dico, questa è la radio di Confindustria, ma io è noto che sono invece per le liberalizzazioni, e quindi dichiaro il conflitto di interesse, ma scelgo anche il mio punto di vista, che non è un punto di vista che sposa quello che sentirete dire, perché abbiamo appunto due ospiti. Però gli consente di parlare, perché siccome c'è una rivoluzione in corso, tentiamo di capirla invece di osteggiarla. Allora, con noi c'è, innanzitutto, io lo ringrazio di questo, Andrea Incondi, che è il manager per l'Italia, country manager di Flixbus Italia. Flixbus è un'impresa tedesca che appunto con la liberalizzazione ha fatto toc toc nel nostro mercato dei trasporti su autolinee liberalizzate, e però sentirete che in realtà il modello eccetera eccetera è comune a quello tedesco, ma ha delle adattamenti molto molto molto italiani ed è molto particolare. Grazie Andrea Incondi di essere con noi. Grazie a voi. E poi abbiamo, per inquadrare il fenomeno, il professor Paolo Beria, che insegna economia dei trasporti e è direttore del laboratorio di politica dei trasporti Traspol del Politecnico di Milano, per consentirci un'osservazione dell'evoluzione del mercato e di come questa cosa regolatoria sta modificando la domanda e l'offerta, ma anche di pesare i numeri per vedere se chi obietta poi ha ragione o ha torto. Grazie professor Beria. Buongiorno a tutti, grazie a voi. Allora, Incondi, il modello vostro è un modello un po' particolare, perché vi si dice siete un'impresa virtuale, state crescendo molto nel settore, ci avevano provato anche gli angloamericani di Megabus, ma nel corso dell'estate hanno dovuto abbandonare il campo e dare a voi le linee, però voi in buona sostanza siete una piattaforma di intermediazione e un modello di organizzazione, perché da voi non dipendono in realtà autisti e mezzi, è così? Allora, Flixbus è un'azienda di autobus in primis, che opera chiaramente, come sta dicendo appunto, con un nuovo modello di business, con un nuovo modello di organizzazione. Noi in Flixbus non abbiamo inventato nuovi autobus o nuovi modelli di autobus, ma abbiamo portato all'interno di questo mercato tecnologia, innovazione e proprio questo nuovo modello organizzativo. Noi ci occupiamo di tutto ciò che riguarda la pianificazione della rete, quindi in termini di orari, frequenze, città collegate, del marketing, delle vendite, di tutto ciò che riguarda la strategia dei prezzi, tutto quello che è il customer service, e per fare questo usiamo tutta la tecnologia a disposizione, mentre il servizio operativo è svolto da dei nostri partner. Che sono i nostri partner? Sono aziende di autobus italiane di piccole e medie dimensioni che si occupano proprio di questo, di fare il servizio operativo focalizzandoci sulla qualità e la sicurezza. La nostra innovazione del nostro modello di business è proprio questo di unire due mondi complementari e unendoli di fare il meglio dei due. Quindi, in sintesi, voi siete un modello, un ombrello che innanzitutto ha chiede e ottiene le licenze per la tratta, no? Oltre 70 in Italia, così. Dopodiché organizza e ottimizza l'offerta dal punto di vista delle tariffe, passeggeri, tratte, eccetera, eccetera, sotto il quale delle imprese che sono a questo punto fornitrici nei vostri confronti hanno i mezzi di cui poi vigilate, i mezzi, le condizioni di esercizio, di chi li guida, di quali sono gli standard di qualità, eccetera, eccetera, non per renderli uguali per tutti, ma controllando che siano non al di sotto di un certo standard, è così? Sì, loro sono nostri partner, c'è un rapporto di parità, con loro definiamo appunto anche le linee, ne definiamo i dettagli, ne definiamo tutte le caratteristiche e con loro appunto quando effettuano l'operatività non li abbandoniamo ma li seguiamo con tutta la tecnologia che abbiamo a disposizione per verificare che il servizio venga operato in maniera appropriata, che con la giusta qualità e con tutto quello che è necessario per far sì che il servizio portato al passeggero sia quello che noi abbiamo promesso. Quindi è una partnership, è un essere insieme proprio con lo scopo di offrire un servizio. Oh, questo Flixbus è un'impresa che in Germania è nata nel 2011, tre giovani di Monaco, di Baviera, che hanno avuto l'idea, quindi stiamo parlando di una classica startup che vede la possibilità di nuove piattaforme di organizzazione della domanda e dell'offerta, dei veri e propri marketplace, cioè, che creano domanda aggiuntiva, come vedete, non sono solo più abili nell'abbattimento dei costi comparati per prendere clienti alla concorrenza, creano domanda aggiuntiva, creano modelli di organizzazione dell'offerta diversa, ma creano anche domanda aggiuntiva. Tra l'altro io so anche lei come è diventato country manager di Flixbus, ed è un'altra storia della, come devo dire, dell'intraprendenza e dell'innovazione, perché lei è andato, lei è lì e ha fatto toc toc, ha detto: ma io sarei in Italia, perché non la facciamo anche qua così? Esatto, io mi sono trasferito a Monaco per ragioni personali, l'allora fidanzata, oggi moglie, abitava a Monaco di Baviera e quindi io l'ho seguita lasciando il mio lavoro in Italia. Quando sono arrivato in Germania, soprattutto a Monaco, ho trovato un ambiente molto fertile, soprattutto nell'ambito delle start-up, e tra queste mi ha appassionato proprio Flixbus quando l'ho provata in un collegamento proprio tra Monaco e Berlino, e ho detto: ma questa cosa deve esserci anche in Italia. Allora ho studiato tutto il modello di business di Flixbus e ho cercato di vedere qual era la regolamentazione in Italia e ho detto: può funzionare, e quindi mi sono presentato alla porta dicendo: secondo me questo progetto può funzionare anche in Italia, e questo è il motivo. E ho fatto vedere loro il mio piano, la mia idea di come entrare nel mercato italiano. E loro hanno detto: sai che ci piace? E praticamente 2 settimane dopo ho iniziato a lavorare sul progetto in Italia. La modalità attraverso cui voi adeguate il costo marginale di tratta, che è il vostro problema industriale, rispetto al prezzo marginale che offrite al cliente, è una delle due contestazioni di fondo che vi fanno gli operatori del settore tradizionale nel nostro paese. L'ho già ricordato, quelli di Confindustria, quindi stiamo andando in partibus infidelium in questa radio. Però vi si dice: da una parte voi avete, poiché non avete responsabilità diretta dei mezzi, del personale, bravi che state prendendo tutta sta quota nel mercato italiano, ma nella realtà voi potete praticare dei prezzi completamente fuori mercato, bassissimi, perché tanto alla peggio mica è vostra la responsabilità del personale e dei mezzi. Uno. Due. Secondo, vi si dice, la vostra è una concorrenza impropria, perché anche gli abbattamenti di costi che praticate, non solo quelli di prezzi, di costi, sono tali da mettere in ginocchio l'intera filiera, che non ha più margini per reggere, dei fornitori e dei clienti, delle altre imprese che stanno in questo settore da prima della liberalizzazione. Ci dà una risposta non troppo tecnica, ma per far capire, siccome sono obiezioni importanti, per così dire, perché a suo giudizio, ma a dire la verità anche a giudizio dell'autorità antitrust che ha fatto su questo un'istruttoria che è arrivata alla conclusione che per il momento non ci sono i margini per levarvi contestazioni. Ma perché queste accuse sono infondate? Allora, prima di tutto, ogni modello che porta un certo grado di innovazione mette in difficoltà, spiazza il contesto in cui si inserisce, il quale, diciamo, preferisce mantenere un po' le logiche del passato con cui ha più dimestichezza. Però, e questo è veramente il nostro, uno dei nostri fondamenti, l'innovazione non si può fermare, ma questo vale proprio per lo sa che in Italia e altrove la politica e la regolamentazione spesso la ferma per anni e per decenni, però e poi si pagano i prezzi, ecco, così l'inciso. Io penso che se oggi noi facciamo quello che stiamo facendo, lo facciamo alla stessa maniera per 5 anni, anche noi avremo molte difficoltà fra 5 anni. L'innovazione non si può fermare, vale per noi e si bisogna cavalcarla e affrontarla con coraggio. E chi lo fa viene premiato dal mercato. Questo anch'io tenevo a fare questo inciso. Ma per quanto riguarda invece tutto il discorso che si fa al tema dei prezzi, naturalmente il nostro è un modello che si basa su una collaborazione e quindi permette prima di tutto una maggiore convenienza, perché entrano in gioco sia economie di scala che di specializzazione, proprio perché uniamo due mondi che possono fare meglio in modo specializzato quello che sanno fare meglio. Poi noi abbiamo importato all'interno di un settore che era abituato a logiche di prezzi statici che scontentavano molti, noi abbiamo portato attraverso algoritmi e tecnologia specializzata la logica dei prezzi flessibili, che quindi seguono il comportamento dei consumatori e che evolvono all'avvicinarsi ovviamente della data di partenza, del riempimento dell'autobus o di altri fattori. Questo permette di riempire gli autobus, massimizzare i ricavi e coprirne anche i costi. Per questo si può trovare oggi una Milano-Roma certamente a 15 euro se si prenota in anticipo, ma si può arrivare anche a 50 euro a ridosso della partenza. E poi questo vale sia per noi che per i nostri partner, quindi noi operiamo all'interno di una partnership proprio tra aziende private che decidono in questo momento di investire insieme in una visione comune, che è quella che noi abbiamo rappresentato essere il modello tedesco, che poi adesso sta diventando il modello europeo, ossia aziende che hanno avuto aziende che effettivamente possono attraverso appunto una visione comune, che è quella di far viaggiare più passeggeri possibili in tutta Italia e in modo conveniente. Sono aziende che hanno avuto la possibilità quindi di diversificare il loro business, hanno incrementato il proprio fatturato, sono tornati ad assumere, hanno acquistato nuovi mezzi e chiaramente hanno ottimizzato anche la propria capacità produttiva. Ma quello che è molto importante di tutto questo discorso è quello che stava anticipando anche lei, che tutto il mercato è aumentato, esatto. Tutto il mercato è cresciuto, la torta è diventata più grande per tutti. Nonché molti tra coloro che vi criticano, lo dico perché siamo andati a controllare appunto sui loro siti, praticano dei modelli di adattamento elastico del prezzo offerto alle tipologie di tratta e evidentemente con lo studio anche di qual è il tipo di passeggero per ogni tipo di tratta, perché chiaramente un'offerta di questo tipo completamente elastica H24 ha bisogno anche di investimenti di studio dietro, però hanno iniziato a praticarli anche loro, mentre prima ho controllato non le praticavano, quindi vuol dire che è un'innovazione anche da parte di chi vi critica. Per avere un'idea, perché poi adesso dopo il minuto di pausa per il traffico andiamo con il professor Beria a capire davvero dal punto di vista terzo di chi studia l'evoluzione del settore se tutta questa innovazione è solo positiva o se comporta anche dei problemi, però per avere un'idea noi dobbiamo molto incrementare la concorrenza bus treno in Europa, perché ci sono paesi come la Finlandia per esempio o il Regno Unito dove il segmento del trasporto su autobus rispetto alla ferrovia è il 34% nel primo caso e il 26% nel secondo, da noi è molto più basso, e questo fenomeno per la liberalizzazione sta preoccupando molto anche la nuova ferrovia dello Stato, è la vecchia ma è quella, dico nuova, quella guidata da Mazzoncini messo lì da Renzi, che come sapete è propalatore di un grande, diciamo così, abbuffata pubblica, per cui si ripubblicizza tutto in Ferrovie dello Stato, il maggior numero possibile di queste imprese di trasporto su autobus, Ferrovie mira a prendersele come mira a prendere il maggior numero di più sane titolari dell'offerta di trasporto pubblico ferroviario locale, come le Ferrovie Nord in Lombardia, ambisce chiarissimamente sub forma di salvataggio a prendersi ATAC, cioè a Roma, col fatto che è scassata finanziariamente, ma una delle più grandi imprese di trasporto pubblico locale. Perché? Perché vuole integrare appunto in un unico organizzatore del mercato sia il trasporto su bus, sia quello ferroviario locale, sia quello centrale. Ripubblicizziamo tutto, dice Ferrovie. Io sono molto contrario, perché è un'idea assolutamente anticoncorrenziale, ma tra un minuto ci sentiamo dopo il traffico. Stufe e caldaie Termorossi, una promessa di calore per un amore di casa. vi presenta. La versione di Oscar. Eccoci qui tornati. Allora, con la scusa che oggi è un giorno di festa, stiamo parlando di questa grande novità che è in corso da quando abbiamo liberalizzato il mercato del trasporto di autobus di lungo percorso nel nostro paese dal 2014. Nuovi partner internazionali, alcuni ci hanno provato, un gruppo americano ha dovuto fare marcia indietro, alcuni ci stanno riuscendo, come questa novità Flixbus che viene dalla Germania ma è diventata una compagnia italiana in cui un mercato di 10 milioni di passeggeri l'anno, l'anno scorso ne ha trasportati già 1.8 milioni. Abbiamo sentito dal manager nazionale di Flixbus Italia, Andrea Inconti, quali sono le novità molto forti sia sulla domanda che sull'offerta di questo tipo di modello di impresa, e io ho tentato anche di rappresentare la parte di chi le contesta brutalmente, dicendo sono modalità di economia digitale ma virtuale, il fatto che abbiano dei partner che poi gestiscono davvero, sono proprietari dei mezzi e sono i datori di lavoro dei conducenti, li assolve dalle responsabilità che gravano invece su ciascuno di noi, possono praticare i dumping sui prezzi e sui costi e mettono in difficoltà tutta la filiera. Però sta di fatto che queste obiezioni per il momento all'antitrust non hanno ottenuto ascolto, perché l'antitrust ha detto no, questo è un nuovo entrante, una new entry nel mercato, quindi non è nelle condizioni certo di poter esercitare abuso di posizione dominante. Si è acceso invece un faro dell'authority dei trasporti. Però tentiamo di capire, dopo aver sentito ovviamente dall'host dire che il vino è buono, cioè Andrea Inconti, e dopo avergli riconosciuto, perché io sono un entusiasta di questo tipo di innovazioni ex liberalizzazione, quindi c'è anche il mio tifo, però sentiamo una parte terza autorevole, cioè il professor Paolo Beria, che insegna economia dei trasporti ed è direttore del lavoro di politiche dei trasporti Traspol del Politecnico di Milano. Allora, abbiamo parlato molto delle luci, ma chi invece punta il ditino, tutta Confindustria, qua i miei editori, dicendo che in realtà sono tutte ombre, secondo lei, professor Beria, hanno delle ragioni che fino a questo momento non abbiamo fatto rilevare ai nostri ascoltatori? Allora, secondo me l'ombra principale, che però in realtà avete già nominato, è il rischio paventato da parte di ANAV di colpire in maniera radicale la struttura produttiva. Quindi io non vedo problemi, anzi vedo aspetti estremamente positivi. Che però l'innovazione, questo è un effetto dell'innovazione, mica l'offerta può rimanere cristallizzata nel tempo. Cioè, se è così, è un'osservazione, potrà essere fattuale, ma non è tale da comportare una concorrenza impropria. No, infatti non ho detto che è una concorrenza impropria, dico solo che di tutto quanto evidenziato come aspetto negativo, io ritengo che in potenza l'unico che potrebbe un domani accadere veramente è una concentrazione della richiesta della produzione, quindi un unico acquirente dei servizi di autobus. E questo, se Flixbus cresce oltre una soglia tale sul totale del mercato, ci porremo il problema. Nel frattempo esatto, sta crescendo. No, è giustissimo. Lei mi ha chiesto le ombre, secondo me questa è l'unica ombra potenziale, perché dal punto di vista dei viaggiatori io penso che ci siano stati vantaggi evidenti e altri ne verranno in futuro, sia all'interno del modo autobus, perché non solo perché sono abbassati i prezzi, questo è vero fino a un certo punto, sulle rotte già esistenti, ma soprattutto perché sono state aperte molte nuove rotte e altre se ne possono aprire, quindi è un mercato, come già avete detto voi, che è cresciuto in estensione, in dimensione. E poi l'altro aspetto positivo è che c'è un concorrente per Trenitalia anche sulle rotte che non sono l'alta velocità Milano, che non sono l'alta velocità, ma anche su rotte, diciamo così, minori, che poi spesso minori non sono. Mazzoncini, la guida dinamica di Ferrovie dello Stato, a cui Renzi ha dato le possibilità di prendersi l'ANAS, incorporarsi l'ANAS in pochi mesi, cosa che per un paese come l'Italia vuol dire che c'è un forte cambio di marcia in corso, ed è evidente, lui lo dichiara tutte le settimane, in questo cambio di marcia c'è appunto, avendo intravisto cosa sta succedendo esattamente in questo settore di mercato di cui stiamo parlando oggi, e avendo intravisto anche una crescita di risorse, non solo una concorrenza diretta, perché diciamoci la verità, il trasporto pubblico locale non è stata esattamente la priorità di Trenitalia in tutti i decenni, i due decenni che abbiamo alle spalle è stata l'alta velocità. Adesso a questo punto dice: arrivo io e divento io il vero market player, e si torna alla ripubblicizzazione di fatto. Lei che dice, professor Beria, di questa prospettiva? Perché la dinamica con cui Ferrovie dello Stato la sta indicando e percorrendo è molto forte, molto energica. Beh, allora sicuramente la cosa è complicata perché ogni monopolio verticalmente integrato rischia di portarsi dietro problemi di grandi problemi di abuso di posizione dominante. Abuso di posizione dominante, sussidi incrociati da parte pubblica e così via. Chiaro, in questo senso io ovviamente non ho una risposta diciamo sicura. Sicuramente è bene che ci siano dei contropoteri, cioè anche dei player, anche grossi, come può essere Facebook, come può essere NTV, come sono le compagnie aeree, che riescano su ogni mercato ad avere una forza sufficiente per tenere testa alla nuova Ferrovie dello Stato. Dal loro punto, diciamo, dal punto di vista di Ferrovie dello Stato è ragionevole, anzi è ragionevolissimo puntare a estendere la sua area di business, perché probabilmente può fare bene certe cose, tipo il fatto di conoscere molto bene la domanda di lunga percorrenza regionale gli può permettere di offrire un prodotto adeguato anche sugli altri segmenti, tipo il trasporto unico urbano, però car sharing, eccetera. Quindi non è il male in sé, il male arriva quando non c'è controllo a questa forza di mercato. Completamente d'accordo con quello che ha detto il professor Paolo Bere, e quindi immagino che coloro che protesteranno col mio editore per questa trasmissione in cui non ho dato direttamente voce, ma incessantemente ho ricordato le obiezioni dei trasportatori invece che si rifanno, dell'offerta, cioè voglio dire, di servizi di autobus che si rifanno a Confindustria, come vedete, la pensiamo così, non è che io disconosco il vostro diritto di battervi contro, però la mia opinione è che invece bisogna ringraziare questi giovani che hanno messo in piedi imprese come Flixbus. Chiedo gli ultimi 30 secondi ad Andrea Incondi, che guida in Italia Flixbus. Voi in realtà che limiti, che fetta del mercato, quanti milioni di passeggeri secondo voi entro l'anno prossimo movimentate in Italia e su quante rotte? Ma allora, sicuramente noi stiamo chiudendo l'anno con circa 2 milioni e mezzo di passeggeri trasportati. Sicuramente il nostro obiettivo, visto che il marchio sta per essere sempre più conosciuto e sempre più utilizzato dai nostri passeggeri, e andremo di conseguenza ad aumentare rotte che oggi o già abbiamo che necessitano una maggiore frequenza, o rotte e collegamenti con città che oggi non arriviamo, andiamo sicuramente ad incrementare i passeggeri in Italia, quindi cercando di andare a cercare di arrivare a circa gli 8-10 milioni di passeggeri che possono arrivare a trasportare. Per quanto riguarda il dato europeo, una cosa che posso dire, ad oggi noi abbiamo un modello che è la Germania, che è partita 4 anni fa, mediamente adesso, praticamente chiudendo l'anno in corso, ha trasportato circa 30 milioni di passeggeri da quando è partita. E ricordatevi ragazzi che vengono anche milioni dall'estero grazie a questi autobus nel nostro paese, per fare turismo eccetera eccetera, per portare a dindini e far crescere la nostra economia. Allora, vi abbiamo raccontato, cari ascoltatori, la modalità nuova che si sta sviluppando sui bus low cost nel nostro paese, una buona cosa grazie alla liberalizzazione del mercato e una modalità digitale di organizzazione dell'offerta e della domanda nel nostro paese, quello che i pazzi come me vorrebbero estendere a tutti i settori del mercato italiano. Grazie Andrea Incondi, grazie al professor Paolo Beria, continuate su Radio 24, noi ci sentiamo domani mattina alle 8:20 insieme ad Alessandro Mina, attenti a noi due.